Dovevi pensare di stare voi? Eh? E pensare di stare in spiaggia a ballare il pulcino Pio, no? Qui si sta in un carcere si sta ordinati, seri e ben disposti. Allora, signori, ora si sta in silenzio e si spengono i cellulari. Per favore non ci rompete le palle con i cellulari, grazie. Anche la vibrazione, se la spegnete è meglio. Che se no poi i carcerati si distraggono, avete capito? Benissimo, avete spento? Fammi vedere il telefono. Dai, caccia fuori. Dove l'hai messo? Qui? Eh? Di là acceso. Eh? È in un giacchetto di là acceso. In un giacchetto di là è acceso? Allora lo devi spegnere! Vabbè, va. Allora, signori, siete tutti ordinati? Tu laggiù chi sei? Che fai? Perché stai lì? Ti devi mettere seduta, grazie. Benissimo, subito la zecchetta in piedi, eh? Brava, brava. Allora, siamo tutti seduti, stiamo tutti bene, siamo tutti pronti. Allora io direi che l'ora di visita può iniziare. Spegnere le luci! Ripeto, spegnere le luci! Undici anni sono passati da quello scacco matto, da quella partita che sul finale confuse vittime e carnefici, da quel clamoroso evento che fece di tutta l'erba un fascio, dal giorno in cui Genova diede voce al malcontento, urlando per le strade, nelle piazze, dentro le scuole. Undici anni sono passati da quando Carlo, un ragazzo di 23 anni, fu azzannato dai cani. Cani addestrati, dicevano, cani da guardia, di questo mondo confezionato ad arte dai potenti. 11 anni sono passati e ognuno ha raccontato una verità, la propria. Oggi come ieri, un altro scaccomatto mette 10 pedine fuori gioco, 10 capri espiatori condannati per aver gridato la rabbia di tutti noi, la paura di tutti noi, il nostro senso di rivincita, il dolore, l'utopia di una fine, il desiderio di un nuovo inizio. Diventa una condanna per devastazione e saccheggio. E quella fetta di mondo parallelo continua a guardarci dall'alto e a giocare, a sottrarci poco alla volta la nostra libertà, a stuprare il nostro immaginario, ad umiliare le nostre aspirazioni. I potenti non hanno più niente da offrire, ma continuano a rimanere in gioco, perché hanno ancora pedine a sufficienza. E non saranno le urla di Piazza San Giovanni a scoraggiarli, non sarà l'assedio al cantiere del TAV, alla Maddalena ad interrompere il gioco. Sono le nostre esistenze ad essere in gioco. Gli insorti di quel luglio genovese, dopo 11 anni, continuano ancora ad essere una testimonianza di come centinaia di pedine possono riuscire a dire basta. Non c'è più tempo per la caccia alle streghe. Se ci fosse anche una sola cosa che Carlo, i rivoltosi di Genova, Roma, Atene, di tutto il mondo ci hanno insegnato, è che le strade delle città in cui viviamo ci appartengono. Quando lo vogliamo, anche per un solo giorno, sono nostre. Oggi come allora. Riprendiamocele. Faccia il muro! Tirate su le mani! Allargate le gambe! Allargate le gambe, stronzi! Fatemi vedere bene, pezzi di merda, che adesso ci divertiamo! Benvenuti nel nostro modernissimo carcere Supermax, meglio conosciuto come Shuttle o Astronave dei Desideri. Come avete avuto modo di notare, la nostra gioiosa prigione è un confortevolissimo luogo di villeggiatura. I nostri alloggi sono confortevoli, accoglienti, il nostro personale altamente qualificato è sempre pronto a rispondere con cortesia, eleganza e piena disponibilità ad ogni richiesta dei nostri clienti. L'ambiente è spazioso, solare. L'aspetto, come avrete notato, ricorda per sommi capi un quadro del paradiso dantesco, con alberi di loto, fiori di verbena, fiori di Bach. C'è persino Caronte che espone un cartello con l'undicesimo comandamento. Questa è la nostra sala di ricreazione, mentre quella è la nostra mensa. Abbiamo una vasta gamma di piatti prelibati e numerose possibilità di scelta in piena conformità con l'ordinamento penitenziario. Ma voi avete già avuto la possibilità di gustare il nostro rancio serale. Avrete dunque annotato il ricco menù a disposizione dei nostri clienti. Qui da noi tutto è Supermax. Persino la carta igienica, che infatti ripulisce per bene i nostri clienti e anche gli ospiti dei nostri clienti. Scelta in piena conformità con l'ordinamento penitenziario. La nostra prigione è purtroppo riservata a un ristretto numero di eletti. I nostri ospiti, come avrete potuto osservare, accedono alla nostra astronave esclusivamente solo per merito ed hanno possibilità di soggiorno a permanenza variabile a seconda del merito. Qui è sempre possibile incontrare uomini e donne sempre sorridenti. Sì, sorridono al nuovo ospite per non farlo andare via! Ecco, per un soggiorno a tempo indeterminato è requisito necessario, ma non obbligatorio, uccidere un uomo bianco. O potrà essere sufficiente far incazzare un uomo in divisa durante una manifestazione. È necessario, fate attenzione, non dimenticate il coupon che vi hanno consegnato all'ingresso, è necessario compilarlo in ogni sua parte e quindi dovrete indicare nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, sesso, razza, religione, partito politico, classe sociale, pena l'esclusione. Se siete dei politici, se siete dei pezzi grossi o anche semplicemente dei pezzi di merda, purtroppo in questi tre casi non si hanno buone possibilità di accesso, soprattutto se vivete in Italia. Per accedere al Supermax è necessario essere in possesso dei giusti requisiti. Però se qualcuno volesse prenotare, sarà sufficiente allestire uno spettacolo contro la repressione, oppure battersi per i diritti umani, oppure aprire un blog antifascista, o meglio ancora, conservare in casa un manuale per la costruzione di una bomba. Ma quanti meravigliosi ospiti! Benvenuto. Benvenuta. Benvenuto. Benvenuta. Benvenuto. Benvenuta. Buona permanenza. Benvenuta. Buona permanenza. Ho chiesto un libro, è un mese che ho chiesto un libro, merda, bastardo, cane, un libro ho chiesto un libro, che vuoi? Eccolo, tieni, vieni qua. Un libro ho chiesto, è un mese che aspetto. Vettila a prendere, prendilo, eccolo qua. Eccolo qua, dai, prendilo. Tieni, via il libro. E adesso leggi. Facci sentire quanto sei bravo, dai. Legge fa bene, legge te. Ti aiuta a non pensare, legge, no? Ti distrae. Un mese che ho chiesto il libro, manco quello ti danno. Il vagabondo delle stelle. Legge ti aiuta a non pensare. Fra poco mi porteranno fuori di qui per impiccarmi. Grazie, eh. Una cosa leggera, giusto per distogliere un po' la mente. Anche un Harmony, andava bene, un Harmony, un po' di letteratura erotica, eh? Dopo anni qua! Signora, torni presto da noi. Fra poco mi porteranno fuori di qui per impiccarmi. Prima di allora voglio dire ciò che serbo dentro di me. Io sono un ottimo docente di agronomia, ma non diventerò mai preside della mia facoltà. Perché in un accesso di ira ho ucciso un mio collega. Ma non sarà per questo delitto che verrò impiccato. E che al tempo mi diede l'ergastolo. Avevo allora 36 anni. Oggi ne ho 44 e gli ultimi 8 li ho trascorsi nel penitenziario statale. 5 dei quali immerso nell'oscurità. Lo chiamano isolamento. Ma chi riesce a resistere lo chiama morte vivente. Fu invece perché diedi prova di essere incorreggibile. Per la psicologia carceraria un essere incorreggibile è un soggetto spaventoso. Mi avevano messo nel laboratorio di tessitura della juta. Il moto superfluo arrivava a livelli tali che mi ribellai. Cercai di rendermi utile, cercai di illustrare alle guardie dei procedimenti più efficaci, con l'unico risultato che mi rinchiusero in una cella sotterranea, privandomi di luce e di cibo. Quando ne venni fuori, cercai di adattarmi alla caotica inefficienza dei laboratori, ma mi ribellai di nuovo. E questa volta, oltre che alla cella di rigore, mi beccai anche la camicia di forza. In segreto. Per 2 anni e senza testimoni le guardie mi torturarono, mi appendevano contro il muro, le braccia in croce, appeso per i pollici mi malmenavano. Nella loro idiozia una cosa la capivano bene, che ero diverso da loro e non altrettanto stupido. Avevo un cervello che funzionava e per questo mi punivano. Quelle guardie erano come dei ratti che mi rodessero l'intelligenza, la coscienza e tutto quanto faceva di me un essere vivo e pensante. Mi torturarono talmente tanto che mi resero davvero un incorreggibile. E quando questa notizia arrivò al caro direttore del carcere, mi convocò nel suo ufficio, nel vano tentativo di farmi ravvedere. Ed io mi espressi a lui con queste parole: caro il mio direttore, è assurdo pensare che quei topi di fogna dei vostri secondini possano scalzarmi dal cervello le cose che vi stanno attaccate, chiare e distinte. L'organizzazione di questo carcere è demenziale, da cima a fondo. Voi siete un politico e certamente saprete come ordire le trame dei galoppini e come spremergli il posto da parassita che occupate qua dentro. Però come si tesse la juta non lo sapete. I vostri laboratori sono indietro di mezzo secolo. Il caro direttore mi qualificò come un incorreggibile, anzi anche come un irrecuperabile. Il carcere, o la gattabuia, come la chiamano in gergo, è una scuola di filosofia. Un uomo deve essere un gran filosofo se vuole sopravvivere all'impatto continuo di esperienze tanto brutali. Nessun recluso può andare avanti per anni ed anni senza essere spogliato delle più care illusioni personali. Ed io uno spirito del genere l'ho posseduto se sono arrivato fino a questo punto. Beh, ora, non riuscendo a sbarazzarsi di me in altro modo, hanno messo in moto la macchina dello Stato. I suoi servitori mi condurranno in quella che chiamano tenebra, quella stessa tenebra di cui hanno paura. Mi passeranno una corda attorno al collo che mi troncherà la vita e il respiro per mezzo del mio stesso peso. Ci sono casi in cui passano anche 20 minuti prima che il cuore si arresti del tutto. 20 minuti. I medici arrivano, ti tengono per le braccia per evitare che tu oscilli come un pendolo. Ti appoggiano l'orecchio al petto per auscultare i battiti sempre più deboli del cuore. Beh, considerando che verrò sottoposto al medesimo trattamento, mi permetto di porre un paio di domande ai pacifici membri della società, la cui anima non ha mai sfiorato le fiamme dell'inferno. Se il collo si spezza in virtù del perfetto funzionamento del nodo scorsoio e della botola, nonché in virtù del calcolo perfetto della lunghezza della corda in rapporto al peso della vittima, perché si legano le braccia al condannato? E perché al condannato, prima di aprirgli la botola, si cala un cappuccio nero sulla testa? Non sarà, cari miei rispettabili concittadini, che quei vostri cani da forca hanno paura di vedere sui volti delle vittime l'orrore di cui si macchiano al vostro posto, su mandato nostro e vostro? E di grazia io questa domanda non la pongo nel 1200 avanti o dopo Cristo, nemmeno al tempo di Gesù, ma oggi, nel 1913, l'anno in cui io verrò impiccato. E la rivolgo a voi, che dovreste essere seguaci di Cristo e ai vostri carnefici, che mi preleveranno da questo carcere e mi nasconderanno il volto sotto un panno nero perché non avranno il coraggio di guardare l'orrore che mi infliggono. Hai detto la tua, adesso fuori dai coglioni! Ancora fuori! Respiro. Fuori! Per prima cosa voglio precisare che non intendo recitare la parte del bravo ragazzo, in quanto io non mi ritengo un criminale. Io sono un rivoluzionario, non ho niente di cui pentirmi. Il mio solo rammarico rappresenta l'errore tecnico che non ha permesso alla bomba di esplodere, così che è stato possibile trovarci sopra le mie impronte ed io sono finito qui. Devo contraddire mio fratello, che prima ha detto non teneva le armi per fare la guerra. Le armi erano per la guerra. Forse sarebbero rimaste lì dove stavano, ma le armi sono fatte per fare la guerra ed io sono in guerra. La bomba al ministero era un atto di guerra. Io non sono un pacifista assolutamente, perché né lo Stato né la società sono pacifisti. Fino a quando ricevo violenza, risponderò con violenza. Per dir la verità, io sono stato incoraggiato a mettere questa bomba da una ragione specifica. La gente del posto aveva oltrepassato da sola i limiti del consentito. Se la lotta si fosse mantenuta in ambiti istituzionali, come nelle intenzioni dei sindacati e delle istituzioni locali che mirano a far restare queste lotte circoscritte, se si fosse limitata ad una lotta innocua e inoffensiva, probabilmente non avrei fatto niente. Ma i compagni là nei villaggi sono persone anch'essi che desiderano la libertà ed hanno rotto i freni. Si sono scontrati con la polizia in 3 occasioni. Ed io ho pensato che questa era gente in gamba, che era andata anche più lontana di noi. Poi è scattata la repressione. Furono inviate unità speciali di polizia e nelle strade comparvero i blindati, cosa che non succedeva dal 1980. Così ho pensato che dovevo fare qualcosa. Perché non è possibile che altri subiscano la repressione e che noi restiamo a guardare. Così ho messo una bomba. Mettendo l'ordigno esplosivo, il mio proposito era di inviare un doppio messaggio politico. Tutto è politica, anche se uno usa questo tipo di mezzi, il messaggio politico. Se la loro libertà è offesa, anche la mia lo è. Ad ogni modo, mettendo l'ordigno, il mio messaggio è arrivato. Anche se non c'è stato nessun danno materiale, il messaggio è arrivato. E voi lo avete ricevuto. Lo ha ricevuto lo Stato, ma anche la gente di Strimonicos lo ha ricevuto. Io so che adesso loro mi ritengono uno di loro anche se non mi hanno mai incontrato. E non esiste niente meglio di questo. E naturalmente ripeto che non mi pento di niente. Ora devo precisare una cosa. Questa azione è stata messa in atto da me solo. Ovviamente il messaggio ha firmato guerriglieri urbani anarchici, ma questo non vuol dire ci fossero altre persone oltre me. Quando ho mandato il messaggio al giornale non potevo mica dire sono Nikos Matsiotis. Riguardo la violenza politica adesso, sin dall'inizio hanno cercato di descrivere questa come un'azione in cui erano implicati efferati criminali e terroristi che mettono bombe alla cieca, tutte cose totalmente inventate. Se il terrorismo è, in generale, l'esercizio della violenza contro dei civili e contro le popolazioni disarmate, allora questa è un'esclusiva dello Stato. Solo lo Stato attacca i civili. Ed è a questo scopo che esistono gli apparati repressivi. Polizianti sommossa, corpi di polizia specializzati per la repressione, esercito, forze speciali, apparati che derubano il popolo. E questi non sono forse addestrati a sparare contro dei bersagli reali. La polizia non è dotata di gas lacrimogeni per usarli dove? Contro i civili durante le manifestazioni. Quindi è solo lo Stato ad attaccare i civili. Io non ho fatto violenza a nessun civile. Terrorismo è quando le occupazioni, gli scioperi vengono attaccati. Terrorismo è quando chi viene arrestato viene poi trovato morto nella cella della stazione di polizia. Terrorismo è questo tribunale. Ogni tribunale per ogni rivoluzionario, ogni tribunale per ogni militante è terrorismo. Un messaggio intimidatorio mandato a tutta la società. Il fatto che abbia messo una bomba come azione di solidarietà non è terrorismo. Nessun cittadino è stato danneggiato. Io non credo che mi stiate giudicando in quanto terrorista. Non credo che mi stiate giudicando per aver avuto l'intenzione di mettere a rischio delle vite umane. Questo è solo un pretesto. Infatti voi mi state giudicando per quello che ho detto finora, per quello che io sono, per il fatto che sono un anarchico, per le mie convinzioni e anche per il mio passato. Così sei stato nell'occupazione del Politecnico, sei stato nell'occupazione della facoltà di economia, sei stato obiettore al servizio militare, di qua e di là. Non ho avuto in precedenza una vita decorosa, ovviamente secondo i vostri criteri, dato che secondo i miei ho avuto una vita assai decorosa. In realtà voi non mi state giudicando per aver avuto l'intenzione di mettere a rischio delle vite umane. In realtà quella che qui viene combattuta è la solidarietà. Lo Stato vuole combattere ognuno isolatamente, perché quando invece si trova di fronte a gente unita, le cose sono molto più difficili. La brutalità della polizia non è sufficiente ad un'efficace repressione. Non ho nient'altro da dire. Aggiungo solo che non mi importa a che pena mi condannerete, perché che sarò condannato è cosa certa. Io non mi pento di niente. Resterò quello che sono. Ed ora il momento della parabola. Come mischiare cacca e cioccolato. Qualche tempo fa un ragazzo rumeno, brutte bestie, un poco più giovane di me, sti giovani d'oggi. Vabbè, viene colto da un'improvvisa voglia di cioccolato, manco fosse incinto. E trovandosi all'interno del supermercato, decide di prenderne un po'. Ma essendo al contempo sprovvisto di soldi per pagarlo, non gli rimane che una sola soluzione, che lascia alla vostra immaginazione. No? Citando i pancreas, ripasso tra le porte, respiro meno forte, ma sento che qualcosa non funziona. Suona! Che pacco le mani nel sacco! No? Ecco. Insomma, per il nostro malcapitato, la sorveglianza, non sentendosi all'altezza del nostro delinquente, incensurato, ma pur sempre un delinquente, decide di chiedere manforte alle nostre amatissime forze dell'ordine, che accorrono prontamente per sventare l'attentato del losco figuro. E costui, resosi conto della cavolata mondiale appena fatta, decide di darsi alla fuga. E come si dice, no? Quando agisci con ardore rischi un po' di cuore, ma rimane il metodo migliore, quindi scappa di corsa. Ma essendo il nostro eroe uno sfortunato di dimensioni epiche, la sua corsa finisce ancora prima di iniziare, e non senza conseguenze. E infatti un povero carabiniere si ritrova col sedere per terra e le gambe in aria. E io penso che questo sia un affronto da punire severamente. Anzi, io penso che in questi casi sia un peccato che la pena di morte in Italia non esista più. E anche perché per questo taccheggio, semplice ma pur sempre un taccheggio, gli viene dato appena 2 anni di carcere e 600 euro di multa. Pensate un po'. E pensare che il cioccolato più costoso fino a ieri era il porcellana prodotto dalla Madeia, soli 150 euro al chilo. Vabbè, qualcuno si starà chiedendo cosa c'entra la cacca con quanto detto sopra. E c'entra, dato che nello stesso paese qualche giorno prima il Parlamento ha deciso di rendere non processabile una persona che per motivi di privacy chiameremo Cosentino N. Si capisce troppo? Diciamo Nicola C. Ed è giusto! Dico, è giusto! L'unico non è stato l'unico, tanti altri poverini hanno sofferto molto, sempre per questioni di privacy, non dirò il nome, solo il cognome, ok? E come Berruti? No. Biondi? Borghezio, Bossi, Maroni, La Malfa, Cirino Pomicino, De Angelis, Bonsignore, Previti, De Michelis, Visco, Vito, Dell'Utri, Berlusconi. E insomma, tutti deputati e senatori condannati, pensate un po'. Ma io dico, se questi signori siedono ancora in Parlamento e decidono le leggi per noi, ci sarà un motivo, no? Io penso che a volte si vuole sempre reprimere il potere datoci dal Signore. E questo è tutto, insomma. Ricordate, il cioccolato fa ingrassare, la merda invece non muore mai. Sono Maria Rita D'Orsogna. Sono una ricercatrice. Vivo in America. Sono qui perché volevo dire 2 parole ad un mio carissimo amico. Ministro Passera. Stavo per andare a dormire quando ho letto dei suoi folli deliri sull'Italia petrolizzata. Ecco, ci sarebbe veramente da ridere del suo modo malato di pensare, dei suoi progetti stile anni 60 per rinnovare l'Italia e della sua visione piccola piccola per il futuro. E invece qui sono pianti amari, perché non si tratta di un gioco, di una scommessa o di un esperimento. Qui si tratta della vita delle persone e del futuro di una nazione, o potrei dire del suo regresso. Lei non è stato votato da nessuno, quindi non può pensare di risanare l'Italia trivellando il bel paese in lungo e in largo. Lei parla di questo paese come se qui non ci vivesse nessuno. Metano dotti dall'Algeria, il corridoio sud dell'Adriatico, 4 rigassificatori e raddoppio delle estrazioni di idrocarburi. E la gente? Dove deve andare a vivere, di grazia? Ci dica. Dove e cosa vogliamo bucare? Ci dica. Buchiamo i campi di riso di Carpignano Sesia, o i sassi di Matera, o i vigneti del Monte Pulciano d'Abruzzo, o le riserve marine di Pantelleria. O magari i frutteti di Arborea, la laguna di Venezia, il parco del Delta del Po, gli ospedali, i parchi, la Maiella, Otranto, le Tremiti. Ci dica. Oppure dobbiamo aspettare un terremoto come in Emilia o un'esplosione di tumori come all'Ilva, per non farle fare certe cose. Ecco, io vorrei sapere dove vive lei. Sì. Vorrei tanto che fosse lei a respirare mercurio dalla mattina alla sera, idrogeno solforato dalla mattina alla sera, e che fosse lei ad aver perso la sua casa nel terremoto, e che fosse sua moglie ad aver partorito bambini deformi. E vorrei tanto che fosse lei costretto ad emigrare perché la sua regione, la Basilicata, quella che ci darà l'80% della produzione nazionale, è la più povera d'Italia. Ma io lo so che dove vive lei tutto questo non c'è. No, dove vive lei ci sono giardini fioriti, ville eleganti, piscine, soldi, amici banchieri, petrolieri e lobbisti di ogni genere. E lo so che è facile fare cassa sull'ambiente. I delfini e i fenicotteri non votano. Il cancro verrà domani, non oggi. I petrolieri hanno i soldi, sbavano per bucare e l'Italia è corrotta. È facile, lo so. Ma non è morale, non è etico tentare di risanare un paese trivellandolo in lungo e in largo, inquinando aria, acqua, terra e soprattutto la pace mentale della gente. Sì, perché ci avete lasciati in mutande, perché non si ha mai il coraggio di attaccare il vero marciume dell'Italia. Ma non lo vedete che cosa succede a Taranto, eh? Che dopo 50 anni di industrializzazione selvaggia all'italiana, senza protezione ambientale, senza multe, senza controllo, senza amore, senza voler lasciare qualcosa di buono a questa società, la gente muore. I tumori sono alle stelle. La gente tira fuori piombo dalle urine. E adesso dobbiamo anche pagare il ripristino ambientale. Sarebbe questa la sua idea di futuro? Beh, io dalla California potrei ridere, invece mi si aggrovigliano le budella. Perché qui le trivelle in mare non ce le mettiamo dal 1969, perché non è questo il futuro. No, il futuro si chiama iTech, Biotech, Nanotech, si chiama Google, si chiama Tesla, Intel, si chiama uno stato di 37 milioni di persone che produce questo benedetto 80% dell'energia da fonti rinnovabili, oggi, ogni giorno, e non taglia gli incentivi a favore delle lobby dei petrolieri. Si chiama programmi universitari per formare chi lavorerà nell'industria verde e si chiama 220.000 posti di lavoro nell'industria verde. Ma non ce l'avete dei figli? Ma che razza di ministri siete? E noi italiani? Noi italiani che cosa faremo? Io non lo so, ma so solo che bisogna esigere. Ma esigere veramente, non su Facebook. Perché chiunque appoggerà questa cricca malsana che pensa che l'Italia sia una landa desolata, beh, si renda conto che sono in gioco le nostre vite. E le nostre vite sono sacre. La vita è un lavoro. Ci avevate mai pensato voi? La vita è una cosa seria. Se prendi la vita come un gioco, la vita si prenderà gioco di te. Lo diceva sempre mio padre, buon'anima. Non dimenticherò mai quando il babbo sul letto di morte mi chiamò a sé, io unico figlio appena ventenne, per consegnarmi i destini della mamma e dell'azienda di famiglia. Mi disse: coglione, mi hai sempre deluso. Che uomo. Lui sì che sapeva parlare ai giovani. I giovani. Oggi i giovani, da che mondo è mondo, sono la specie umana meno adatta a definire alcunché sulla vita e sui suoi significati. Perché? perché non hanno ancora capito quello che dicevo poc'anzi. La vita è una cosa seria. E affinché la vita e la società possano prosperare nella direzione della morale e della giustizia, una sola cosa è necessaria: l'ordine. Che cosa ne so io di morale? Vado a messa tutte le domeniche. La mia azienda destina migliaia di euro per la costruzione di pozzi in Burkina Faso, ok? Mia moglie è membro onorario del Lion Club. Io personalmente finanzio una serie di attività culturali. Adesso non ricordo bene quali, ma ci butto un sacco di soldi. Quindi so cosa dico. E so che la società oggi ha bisogno di ordine, non di destabilizzatori. Si fa un gran parlare di quello che è successo alla Diaz. Ma che è successo alla Diaz? Eh? Non è successo niente. Niente che valga la pena di essere raccontato e ricordato così a lungo. L'hanno chiamata la macelleria. Esagerati. Ma allora questa società vuole andare a rotoli. No, no, no, una cosa è successa. Una cosa è successa e ora ve la spiego. È successo che lo Stato ci vuole bene. L'ordine costituito ha allungato il suo amorevole braccio poliziesco per accarezzare i suoi figlioli. Questo è amore. I giovani, quei ragazzi, hanno distrutto un'intera città. Vandali! E per fare cosa? Per fare cosa? La rivoluzione! Cambiare il mondo! Invertire la morale! Ma loro non hanno capito un cazzo. Non sanno di cosa parlano. Ma sapete qual è il problema? Il problema è la gravissima assenza della componente più fondamentale nell'educazione. Le legnate. Allora mamma e papà non vi hanno saputo educare? Non vi hanno saputo insegnare il rispetto per le istituzioni, le tradizioni, per la gente più esperta di voi? Allora lo Stato si sostituisce a mamma e papà. E varrà da lui qualche sana legnata educativa. Così la prossima volta ci pensate bene prima di spaccare le vetrine e le macchine. Che poi, questa è la stessa gente che va a frignare. Dico, ti piace fare l'eroe, il grande, l'anarchico? Eh? Amico mio. E poi? Ti piace andare incappucciato, coperto dai tuoi simili, ma quando ti vengono a stanare non ti piace più. E allora fai il piagnisteo. Sapete cosa? Hanno fatto bene. Hanno fatto solo bene. Hanno semplicemente riequilibrato la situazione. Perché quei ragazzi, signori miei, quei ragazzi, hanno bisogno di quello che dicevo prima. Di quello che i loro genitori, le loro famiglie non gli hanno saputo dare. Una cazzo di raddrizzata. E questa è violenza? No, questo è amore. Lampadine. Fate bene attenzione perché potreste pentirvene. Ma se proprio proprio non potete farne a meno, allora mi raccomando, non tenete lampadine di scorta in casa. Quando quelle inserite negli appositi lampadari si saranno fulminate, voi vagherete al buio, solo allora potrete comprarne di nuove. Perché sono ottimi strumenti per costruire bombe. Due, se voi ritenete opportuno abbellire la vostra persona con orecchini, non acquistateli di rame. E se un'amica o un amico ve ne regala un paio, per carità, disfatevele immediatamente perché sono armi pericolosissime. Tre, se non avete la maniacale abitudine di trovare un posto per ogni cosa, ma siete disordinati e tendete a tenere una improvvisata cassetta degli attrezzi dove tra l'altro voi riponete anche chiodi, pinzette per firmare i fogli, ma che dirvi, siete pericolosi terroristi pronti a costruire bombe così in ogni minuto. 4 altro, se vi capita di avere in casa mollette per i panni, non di plastica, di legno, ma allora bruciatele, inceneritele, spargete le ceneri proprio ai quattro venti, così, eh? Voi non vi rendete conto di che cosa si nasconda dietro una molletta di legno? Tutti questi piccoli, però non poco importanti avvertimenti, servono perché la notte del mio arresto hanno trovato in casa dove vivo con il mio compagno, dove tra l'altro io non c'ero, hanno trovato tra le altre cose, insomma, lampadine, orecchini di rame, chiodi, pinzette per fermare i fogli e una molletta di legno. Il tutto è stato messo insieme, sistemato e fotografato in modo da sembrare un assemblaggio di oggetti per costruire una bomba. Per non parlare del fatto che, siccome non hanno trovato materiale cartaceo che descrivesse come queste bombe si costruiscono, è stato detto dagli acutissimi Ross e PM, tra l'altro profondi conoscitori della mia persona, che non c'era bisogno, perché era tutto nella mia mente, nella mia salda memoria. voglio aggiungere un ultimo punto alla lista, sebbene possa sembrare poco inerenti a quelli precedenti. 5. Se questo mondo vi fa schifo, se ripudiate la guerra, lo sfruttamento, la devastazione, la discriminazione, se non avete mai avuto paura di dirlo, se non avete mai chinato la testa pensando, io non ci posso fare niente, se ci avesse sempre messo la faccia, se il cuore vi si chiude, se il sangue vi pulsa, se la vista vi si annebbia al pensiero di una donna, di un uomo, di un animale rinchiuso, beh, come dice una donna rinchiusa qui con me, prima o poi ti devi fare la galera. Mi chiamo Giulia, ho 33 anni e mi trovo nel carcere di Rebibbia. Devo rispondere del reato di associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico. Terrorista è chi rinchiude, chi manganella, chi devasta. E allora che tremino i potenti di fronte agli animi fieri di tutti questi terroristi che non hanno paura di lottare contro ciò che realmente genera e rinvigorisce il terrore. Che tremino, che abbiano paura, perché la loro vera paura è che sanno che qualsiasi gabbia mi metteranno intorno, che sia cella, prigione, isolamento, diffamazione, beh, io continuerò ad abbatterla e continuerò a guardare il mondo con gli occhi lucidi, aspri, vivi, liberi. Che si arrovellino pure il cervello a cercare maglie migliori per le mie catene. Io sarò più forte, perché io ho in me una coscienza e la consapevolezza di quella che sono. E loro non la intaccheranno mai, che si specializzino pure nell'altra sopraffina di inventare nuovi significati alle parole, laddove guerra diventa missione di pace, laddove le bombe sono intelligenti, mentre lampadine e orecchini di rame diventano armi pericolosissime, laddove il terrorismo non è di chi reprime, uccide, rinchiude, no, ma di chi lotta contro tutto ciò, laddove il non accettare lo status quo dell'ingiustizia è sinonimo di pericolosità sociale, laddove gli immigrati carcerati diventano ospiti. Le mie parole non hanno la forza, il peso della storia del nostro tempo, della rabbia, dell'insolenza, della voglia di abbattere la gabbia che rinchiude la vita di noi tutte e tutti, schiavi di una vita che non vogliamo, di un mondo che cade a pezzi, che chiama i suoi residui progresso. Beh, io sto dalla parte di chi lotta, di chi non si inchina. Le bombe e il terrore li semina lo Stato, il potere e la nostra santa democrazia. Per la libertà di tutte e di tutti. Io qui sono una donna libera e non sono matta, ma potrei diventarlo. Brava, va all'oscuro, dai, che così ti mimetizzi. Ma voi veramente volete star senti questi? Sì. Eh? Sì. E gli date retta? Eh? Credete veramente a quello che stanno a di questi qua? Possibile, dico io, che siano tutti sfortunati. che sia tutta gente che in un modo o nell'altro gli è andata male. Possibile che la legge sia sempre così ingiusta? È possibile? Ci può star, no? Che magari si annoiavano, che magari avevano un problema che non si poteva risolvere, no? Ci può star pure che magari si sono trovati in una situazione difficile, ma in un modo o nell'altro sono finiti qua dentro, ma sempre perché hanno sbagliato, non dimentichiamocelo. Hanno toppato la grande nei confronti del nostro Stato, della nostra società e della nostra bella patria, e questo secondo me è indiscutibile. Che poi voglio dire, stanno male adesso? No, non stanno male, punto. Cioè, c'hanno un pasto caldo e c'hanno un pasto caldo, c'hanno un letto per dormire e c'hanno un letto per dormire, se gli gira gliel'hanno pure un lavoretto, magari io, no? Non faccio un cazzo, rubo e mi danno un pasto per dormire, un pasto e un letto per dormire. E invece no, a me invece mi tocca stare qua dentro a far da bari a sti quattro stronzi per i due soldi che mi danno a fine mese. Vi sembra giusto a voi? Eh? Vi sembra giusto? Ti sembra giusto a te? E a voi, merde? Vi sembra giusto? Eh? Spegni la luce, va. Insomma, tornando a voi che siete venuti qua oggi, no? Siete venuti qua, belli belli, avete detto, andiamo un po' a sentire che ci hanno dato questi, poracci, sono carcerati, sono sfortunati, famo vedere che siamo tutti uniti, eh? Che siamo coesi coi più deboli. Che stronzi. Eh? Perché non lo so come funziona io? Che te pensi che non lo so come funziona? Voi oggi siete venuti qua, no? Avete detto, andiamo un po' a sentire che ci hanno dato questi, andiamo un po', sentiamo un po' l'oretta di sfogo di sti quattro naufragati che stanno qua dentro, eh? E poi ve ne tornate a casa, tutti belli e ripuliti. Eh già, ripuliti. Come quando ti vedi in televisione gli spot, no? Con i bambini del Congo che si morono di fame, che i panze gonfie pieni di mosche, no? E allora subito vai giù, tagli, mandi 2 euro ai bambini del Congo, con su una mano il telefono e su quell'altra la batti a scottadito che t'ha fatto nonna. Eh? Oppure, come quando vai a teatro e te vedi uno spettacolo che non ci hai capito un cazzo, no? Però dopo quando torni a casa ti senti più, no? Non ci hai capito un cazzo, però quando torni ti senti più acculturato, no? E allora magari glielo racconti agli amici, tanto che te frega solo tu, lo sai che non ci hai capito un cazzo. E quindi glielo racconti e loro pensano che sei uno che ci capisce, no? Che c'ha una certa cultura, che sei uno che mica gliela manna a dì. Poi voglio dire che pure con la figa c'è un certo effetto, no? Che tu glielo dici, no? Che quella pensa che tu sei uno che insomma, sei uno che si informa, no? E così voi avete fatto la cosa bella oggi. Siete contenti mo? Vi sentite ripuliti? E mo quando scappate fuori tutti quanti a dire, ah, vedi questi poretti, quanto mi fanno pena, che merde guardie, eh già, che merde guardie, eh? E voi mica ci state qua dentro dalla mattina alla sera, che per farti rispettare bisogna che meni, e se non ti rispettano devi menare più forte, perché al meglio ti chiamano cane oppure stronzo oppure merda, e te devi ricordare che si governa solo con la paura. E poi io li rispetto gli ospiti, mica sono uno di quelli che dice che menano per divertirsi, che torturano così perché gli va. Che poi secondo me queste cose sono pure tutte stronzate, non mica è vero. Ma tutte cose inventate da gente come voi, perché bisogna sempre screditare il potere, no? I comunistelli. Eh? E poi vorrei vedervi a voi, che se uno sapete che è carcerato, cambiate pure posto sull'autobus. Io mi ricordo che c'avevo una sopra casa mia che era stata in carcere, no? E praticamente tutti quelli del palazzo stavano tutti quanti a dire sempre: oh, ma lo sai? Quella del quarto piano è stata in carcere. Davvero? Eh sì, pensa che rubava, spacciava. Mamma mia, state attenti. Eh già, state sempre molto attenti. Perché se uno sbaglia e finisce qua dentro, poi in mezzo a voi non ci può più sta. Eh no, perché gira gira, se uno ci è cascato una volta, poi ti può sempre ricascare, no? Eh già, andiamo su. Ma chi è che vuole veramente il reintegro? La rieducazione. Ma chi è che la vuole veramente? Andiamo, ma chi è che vuole mettere a vendere i televisori uno che prima li rubava? Eh? Oppure vuole mettere in cassa la SMA una che prima si fregava i sordi? Andiamo, no? E non so, ora non va bene. Allora noi qui siamo tutti alieni. E questa è come un'astronave fuori dal mondo. Ma è meglio che sia così, Ma è meglio, datevi retta, ma vi conviene. Così voi da lontano potete guardare, indicare e giudicare, ma senza mai sporcarvi le mani. Allora, siccome nella vita ci vuole molta coerenza, quando venite qua dentro dovete fare come il turista che va allo zoo. Che guarda la scimmia, gli fa un po' pena, e allora gli tira la nocciolina. Così lui è contento e vaffanculo la scimmia. Di fronte a queste continue manifestazioni di piazza, di studenti, giovani, indignados e quanti altri, esiste un sistema antico ed efficacissimo. Mi spiego. Innanzitutto, lasciare perdere gli studenti dei licei. No, perché immaginate che cosa accadrebbe se un ragazzino rimanesse ucciso, anche solamente ferito gravemente. Lasciar fare invece gli universitari. Ritirare le forze dell'ordine dalle strade, dalle università. Infiltrare il movimento con agenti provocatori disposti a tutto. E lasciare che per una decina di giorni i manifestanti devastino negozi, incendino auto, mettano a ferro e fuoco la città. Dopodiché, forti del consenso popolare, il rumore delle sirene delle ambulanze dovrà sovrastare quello delle auto della polizia, dei carabinieri! Nel senso che le forze dell'ordine non dovrebbero avere pietà e mandare tutti all'ospedale. Non arrestarli, che sicuramente qualche giudice li rimetterebbe subito fuori. Ma picchiarli e picchiare anche quei docenti che li fomentano! Soprattutto i docenti! Non quelli anziani, certo, ma alcune maestre ragazzine, quelle sì! Esistono degli insegnanti che indottrinano i bambini e li portano in piazza. Ma questo è un comportamento criminale! E non si tratta di un ritorno al fascismo! È l'unica ricetta democratica! Spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio! Non esagero. Credo sinceramente che il terrorismo tornerà a insanguinare le strade di questo paese. E non vorrei che ci si dimenticasse che le Brigate Rosse non sono nate nelle fabbriche, ma nelle università. E che gli slogan che utilizzavano li avevano utilizzati prima di loro il movimento studentesco e la sinistra sindacale. È dunque probabile che la storia si ripeta. Ed è per questo che dico: non dimentichiamo che le Brigate Rosse sono nate perché la fiamma non è stata spenta per tempo. Queste sono le parole di un grand'uomo a cui noi tutti dovremmo ispirarci. Un grande uomo, un grande presidente, Francesco Cossiga. Spegnere le luci! Quando pensate al caos, forse sotto sotto qualcuno di voi prova un brivido d'eccitazione all'idea che possa succedere qualcosa. Qualcosa che interrompa quella noiosa routine che per molti di noi è la nostra esistenza. Magari non ve la sentite di ammetterlo, ma una catastrofe potrebbe essere l'occasione per fuggire dalla gabbia e avventurarsi nell'ignoto. Che strazio vivere come reclusi, sognando una sospensione della pena, senza mai sapere se e quando arriverà. Può darsi invece che questa parola, caos, vi faccia venire la pelle d'oca, che vi faccia pensare ai lutti e alle tragedie insensate che le catastrofi reali comportano. In tal caso, forse, vi sarà già venuto in mente che anche se al rallentatore stiamo vivendo la più disastrosa catastrofe della storia, visto che l'ambiente è devastato e la diversità dell'esperienza umana è schiacciata dal rullo compressore del pensiero unico capitalista. Nel bel mezzo di un simile disastro non si possono più seguire le ricette elaborate da altri in tempi più pacifici. Che in cuor vostro vi auguriate il caos o che invece speriate vivamente di evitarlo, una cosa è certa: che le vecchie formule non bastano più. Abbiamo bisogno di ricette per il caos.